5. Decisione. Margaret ascoltò attentamente tutti i propositi della madre per dare qualche piccolo conforto in più ai tanti poveri della parrocchia. Non riusciva a non ascoltare, sebbene ogni nuovo progetto fosse per lei una pugnalata al cuore. All'arrivo del gelo sarebbero stati lontani da Helston. Il vecchio Simon avrebbe probabilmente avuto forti reumatismi e la sua vista sarebbe peggiorata. Nessuno sarebbe andato a fargli visita per leggergli qualcosa e per confortarlo con un po' di brodo e flanella rossa di buona qualità. Oppure, se qualcuno ci fosse andato, sarebbe stato un estraneo e l'anziano l'avrebbe aspettata invano. Il figlioletto storpio di Mary Donville avrebbe strisciato inutilmente fino alla porta e invano avrebbe atteso il suo arrivo dalla foresta. Questi poveri amici non avrebbero mai capito perché li aveva abbandonati, ce n'erano molti altri oltre a loro. Tuo padre ha sempre speso tutti i suoi soldi nella parrocchia. Io forse sto mettendo mano ai risparmi per le spese future, ma l'inverno sarà probabilmente severo e i nostri poveri vecchi vanno aiutati. Oh, mamma, facciamo quello che possiamo, disse Margaret con una certa impazienza, senza ponderare la questione in modo prudente, aggrappandosi soltanto all'idea che quell'aiuto lo avrebbero dato per l'ultima volta. Potremmo non restare a lungo qui. Ti senti male, mia cara? Domandò la signora Hale agitata, non capendo l'allusione di Margaret all'incertezza della loro permanenza a Helston. Sembri pallida e stanca. Ah, quest'aria sfibrante, umida e insalubre. No, no, mamma, non è quello. L'aria è gradevole. Profuma della fragranza più fresca e pura al confronto della fumosità di Harley Street, ma sono stanca. Deve essere certamente quasi ora di andare a letto. Non manca molto, sono le 9:30. Faresti meglio ad andare subito a dormire, cara. Chiedi a Dixon un po' di brodo. Verrò da te non appena ti sarai messa a letto. Temo che tu abbia preso freddo, oppure l'aria malsana di qualche laghetto stagnante. Oh, mamma, disse Margaret abbozzando un sorriso mentre le dava un bacio. Non sto male. Non preoccuparti per me, sono soltanto stanca. Margaret andò di sopra. Per placare l'agitazione della madre, si rassegnò a una tazza di brodo. Si era abbandonata sul letto quando la signora Hale salì per farle le ultime domande e darle un bacio prima di ritirarsi nella sua stanza per la notte, ma nell'istante in cui udì la porta della camera della madre chiudersi, balzò fuori dal letto e, indossando la vestaglia, si mise a camminare su e giù per la stanza, finché lo scricchiolio di una delle tavole le ricordò che non doveva fare rumore. Allora, la finestra, dove si formava una piccola nicchia. Quella mattina, guardando fuori, il cuore le era rimbalzato in petto alla vista della luce vivida e intensa sulla torre della chiesa che preannunciava una bella giornata di sole. La sera, erano trascorse non più di 16 ore, se ne stava lì seduta, troppo stanca per piangere, ma provava un dolore costante e ottuso che sembrava aver spinto fuori dal suo cuore la giovinezza e il buon umore per sempre. La visita del signor Henry Lennox e la sua proposta erano come un sogno, una cosa al di fuori della sua vita vera. La dura realtà era che il padre aveva permesso alla sua mente di venire dilaniata da dubbi così forti da diventare uno scismatico, un emarginato. Tutti i futuri cambiamenti sarebbero derivati da quella scelta estremamente compromettente. Guardava fuori la sagoma grigio scura delle torri della chiesa, squadrata e svettante al centro della vista, stagliarsi contro le trasparenti profondità di un blu scurissimo che penetrava con lo sguardo, e sentiva che avrebbe potuto fissarle per sempre e vedere ogni istante più lontano, senza però scorgere alcun segno divino. In quel momento le sembrava come se la terra fosse più isolata che se l'avesse coperta una cupola di ferro, oltre la quale potevano forse esserci la pace e la gloria eterne dell'Onnipotente. Quelle infinite profondità dello spazio, nella loro immobile serenità, per lei erano più beffarde di qualsiasi possibile confine materiale, perché imprigionavano le grida dei sofferenti della terra. Grida che avrebbero potuto raggiungere l'infinito splendore di quella vastità e perdersi, perdersi per sempre prima di toccare il suo trono. Era in questo stato d'animo quando il padre entrò senza essere sentito. La luce della luna era abbastanza forte da permettergli di vedere la figliola in un punto e in un atteggiamento per lei insoliti. Le si avvicinò e le toccò la spalla prima che si accorgesse che lui era lì. Margaret, ho sentito che eri sveglia, non ho potuto fare a meno di venire a chiederti di pregare con me, di dire il Padre nostro. Farà bene a entrambi. Il signor Hale e Margaret si inginocchiarono davanti alla finestra, lui con lo sguardo verso l'alto, lei prostrata con pudica umiltà. Il divino era lì, stretto intorno a loro, e sentiva le parole che il padre sussurrava. Suo padre poteva magari essere un eretico, ma non si era dimostrata ben più scettica lei, nei suoi disperati dubbi di neanche 5 minuti prima. Non disse una parola, ma si infilò nel letto dopo che il padre se ne fu andato, come una bambina che si vergogna della sua colpa. Anche se il mondo era pieno di problemi insormontabili, lei avrebbe avuto fede e chiedeva soltanto di scorgere il passo opportuno da fare in quel momento. Il signor Lennox, la sua visita, la sua proposta, il cui ricordo era stato accantonato così bruscamente per i successivi avvenimenti della giornata, tormentarono i suoi sogni quella notte. Nel sogno si arrampicava su un albero particolarmente alto per raggiungere il ramo a cui era appeso il suo cappellino. Stava cadendo e lei cercava di salvarlo, ma una mano potente e invisibile la tratteneva. Era morto. Ma poi la scena cambiò, lei era di nuovo nel salotto di Harley Street e conversava con lui come faceva in passato, pur essendo tutto il tempo consapevole di averlo visto morire in quella terribile caduta. Miserabile notte senza riposo. Che mal disponi al nuovo giorno. Si svegliò di soprassalto, stanca e con la consapevolezza che la realtà era ancora più brutta dei suoi sogni agitati. Le tornò in mente tutto, non soltanto il dolore, ma il terribile conflitto in quel dolore. In quale luogo, a quale distanza da tutto il resto aveva vagato suo padre, guidato da dubbi che erano per lei tentazioni del diavolo. Desiderava ardentemente chiedere e allo stesso tempo non avrebbe voluto ascoltare per nulla al mondo. Il piacevole fresco del mattino fece particolarmente bene a sua madre, rendendola di buon umore a colazione. Parlava di continuo, pensando a possibili cortesie per la gente del villaggio, incurante del silenzio del marito e delle risposte a monosillabi di Margaret. Prima che la tavola fosse sparecchiata, il signor Hale si alzò, appoggiò una mano sul tavolo come per sorreggersi. Non sarò a casa prima di stasera. Andrò a Bracy Common e chiederò al fattore Dobson di darmi qualcosa per cena. Tornerò alle 7 per il tè. Non guardò nessuna delle due, ma Margaret sapeva quello che voleva dire. Entro le 7 l'annuncio a sua madre doveva essere fatto. Il signor Hale avrebbe rimandato fino alle 6:30, ma Margaret era di un'altra pasta. Non sarebbe riuscita a sopportare quel gravoso peso nella mente per un'intera giornata. Meglio affrontare subito il peggio. Il giorno sarebbe stato troppo corto per confortare la madre. Ma mentre lei era in piedi vicino alla finestra, pensando a come incominciare e aspettando che la cameriera uscisse dalla stanza, sua madre era salita di sopra a prepararsi per andare alla scuola. Tornò di sotto, già pronta, con umore più allegro del solito. Mamma, vieni a fare due passi con me in giardino, soltanto un giretto, disse Margaret, cingendo con un braccio la vita della signora Hale. Passarono per la porta a vetri che era spalancata. La signora Hale parlava, diceva qualcosa, Margaret non riuscì a capire cosa. Il suo sguardo si posò su un'ape che stava entrando in un grande fiore a campana. Quando quell'ape fosse volata fuori con il suo bottino, avrebbe iniziato. Quello sarebbe stato il segno. E l'ape uscì. Mamma, papà vuole lasciare Helston, disse senza riflettere. Ha intenzione di lasciare la chiesa e di vivere a Milton Northern. Eccole lì. Le tre dure realtà e con durezza annunciate. Perché dici questo? Chiese la signora Hale con voce sorpresa e incredula. Chi ti ha detto una simile idiozia? Papà, in persona, rispose Margaret, desiderando ardentemente dire qualcosa di gentile e confortante, ma non sapeva davvero come. Erano vicine a una delle panchine del giardino. La signora Hale si sedette e scoppiò a piangere. Non ti capisco, disse. O ti sei sbagliata di grosso, o non ti capisco proprio. No, mamma, non mi sto sbagliando. Papà ha scritto al vescovo dicendo che i suoi dubbi sono tali da non permettergli in coscienza di continuare a essere un ministro della Chiesa d'Inghilterra e che deve lasciare Helston. Ha quindi chiesto consiglio al signor Bell, sai, il padrino di Frederick, ed è stato deciso che andremo a vivere a Milton Northern. La signora Hale guardava Margaret negli occhi mentre parlava. L'ombra che le oscurava il viso indicava che in fin dei conti credeva alla verità delle sue parole. Non può essere vero, disse la signora Hale alla fine. Me ne avrebbe sicuramente parlato prima di arrivare a questo punto. A Margaret fu improvvisamente chiaro che sua madre avrebbe dovuto sapere, per quali potessero essere i suoi difetti, come il malcontento e il continuo lamentarsi, suo padre aveva sbagliato a lasciare che venisse a sapere dei propri dubbi di fede e dell'imminente cambiamento di vita dalla figlia meno informata di lei. Si sedette accanto alla madre. Le prese la testa, che non oppose resistenza, e se la portò al petto, piegandosi in modo da toccare con le morbide guance il suo viso. Cara, carissima mamma, avevamo così paura di darti un dispiacere, soprattutto papà, lo sai che non sei forte e suppongo abbia attraversato una terribile fase di incertezza. Quando te l'ho detto, Margaret? Ieri, soltanto ieri, rispose, percependo la gelosia dietro quella domanda. Povero papà, tentando di sviare i pensieri della madre verso una pietosa comprensione per tutto quello che il padre aveva passato. La signora Hale sollevò il capo. Che cosa vuol dire che ha dei dubbi? Domandò. Di certo non vorrà dire che la pensa diversamente, che ne sa di più della Chiesa. Margaret scosse la testa e i suoi occhi si riempirono di lacrime quando sua madre toccò il tasto dolente del suo stesso rammarico. Ma non riesce a farlo ragionare il vescovo? Chiese la signora Hale con una certa impazienza. Temo di no, disse Margaret. Ma non ho chiesto, non riuscirei a sopportare di sentire la sua possibile risposta. Ad ogni modo, è tutto sistemato. Ha intenzione di lasciare Helston tra un paio di settimane. Non sono sicura se ha detto che ha spedito la sua richiesta di dimissioni o meno. Tra 2 settimane! Esclamò la signora Hale. Lo trovo molto strano, per nulla corretto, crudele, direi, esclamò, iniziando a trovare sollievo nelle lacrime. Ha dei dubbi, dici, e lascia la sua parrocchia e tutto, senza consultarmi. Penso che se mi avesse parlato subito dei suoi dubbi, io li avrei stroncati sul nascere. Per quanto Margaret ritenesse sbagliato il comportamento del padre, non riusciva a sopportare che la madre lo colpevolizzasse. Sapeva che il suo riserbo era nato dall'affetto per lei, che poteva essere codardo ma non crudele. Quasi speravo che magari saresti stata contenta di lasciare Helston, mamma, disse dopo una pausa. Non sei mai stata bene qui con quest'aria, lo sai. Ma non puoi pensare che l'aria fumosa di una città industriale come Milton Northern, con tutte quelle ciminiere e la sporcizia, sia meglio dell'aria che c'è qui, che è dolce e pura, seppure troppo fiacca e snervante. Immagina di vivere in mezzo alle fabbriche, alla gente di fabbrica, anche se certo, se tuo padre lascia la chiesa, saremo ovunque esclusi dalla società. Oh, che disgrazia per noi! Povero caro Sir John, è un bene che non sia più in vita per vedere che cosa è arrivato a fare tuo padre. Ogni giorno dopo cena, quando ero ragazza e vivevo con tua zia Shaw a Beresford Court, Sir John era solito fare il primo brindisi: viva la Chiesa e il Re, e abbasso il Parlamento. Margaret era contenta che la madre avesse smesso di pensare al riserbo del marito e avesse spostato l'attenzione su una questione che doveva starle molto a cuore. Accanto alla seria preoccupazione principale circa la natura dei dubbi di suo padre, questa era l'unica circostanza del caso che più angosciava Margaret. Come sai, abbiamo una società di ben poco conto qui, mamma. I Gorman, che sono i nostri vicini più prossimi, parliamo di società e non li abbiamo quasi mai visti, sono commercianti tanto quanto la gente di Milton Northern. Sì, disse la signora Hale piuttosto indignata, ma in ogni caso i Gorman hanno costruito carrozze per metà dei nobili del paese e hanno avuto dei contatti con loro. Ma questa gente di fabbrica, chi al mondo indossa cotone se può permettersi il lino? Beh, mamma, rinuncerò ai filatori di cotone, non starò dalla loro parte, non più di qualsiasi altro commerciante. Ci avremo a che fare il minimo indispensabile. Perché mai tuo padre si è intestardito di andare a vivere a Milton Northern? Beh, in parte, disse Margaret sospirando, perché è così tanto diversa da Helston, e in parte perché il signor Bell ha detto che avrebbe un'opportunità come precettore. Precettore? A Milton? Ma perché non può andare a Oxford e insegnare ai gentiluomini? Dimentichi, mamma, Lascia la chiesa per le sue idee, Oxford non gioverebbe ai suoi dubbi. La signora Hale rimase per un po' in silenzio, piangendo sommessamente, e alla fine disse: «I mobili! Santo cielo, come faremo con il trasloco? Non ho mai traslocato in vita mia, e 2 settimane soltanto per pensarci!» Margaret provò un inesprimibile sollievo nel vedere che la preoccupazione e il dolore della madre erano caduti così in basso su una questione per lei così insignificante, per la quale poteva aiutarla davvero tanto. Fece progetti e promesse, convinse la madre a lasciarle l'organizzazione di tutto quello che si poteva predisporre prima di sapere qualcosa di più definitivo sulle intenzioni del signor Hale. Per tutto il giorno Margaret restò con la madre, concentrando tutto il suo spirito per comprendere i suoi sentimenti che cambiavano di continuo, specialmente verso sera, quando si fece sempre più ansiosa di far trovare a suo padre un'accoglienza rilassante in casa dopo una giornata di sofferenza e fatica. Si soffermò su ciò che egli aveva custodito in segreto così a lungo. La madre si limitava soltanto a replicare con una certa freddezza che il marito avrebbe fatto bene a parlargliene e che inoltre avrebbe in ogni caso dovuto cercare qualcuno per farsi consigliare. Così Margaret impallidì quando udì i passi del padre all'ingresso. Non osò andargli incontro e raccontargli la sua giornata per paura di suscitare la gelosia della madre. Sentì che indugiava, come se stesse aspettando lei o un qualche suo cenno, e lei non osò muoversi nel vedere le labbra della madre che si contraevano. E il suo viso che cambiava colore. Capì che anche lei si era accorta del ritorno del marito. Poco dopo lui aprì la porta della stanza e rimase lì, indeciso se entrare o no. Aveva un colorito grigio e pallido, l'espressione dei suoi occhi era esitante e spaventata, una cosa penosa da vedere sul volto di un uomo. Ma quell'aspetto scoraggiato e incerto di sfinimento mentale e fisico toccò il cuore di sua moglie. Gli andò incontro e gli si gettò tra le braccia, gridando: «Oh, Richard, Richard, avreste dovuto dirmelo prima!» E poi, in lacrime, Margaret la lasciò e si precipitò di sopra per buttarsi sul letto e nascondere la sua faccia tra i cuscini per soffocare i singhiozzi isterici che alla fine sarebbero esplosi dopo un'intera giornata di rigido autocontrollo. Non avrebbe saputo dire quanto fosse rimasta distesa così. Non sentì nessun rumore, neanche la cameriera che entrò a sistemare la stanza. La giovane, spaventata, uscì furtivamente in punta di piedi e andò a dire alla signora Dixon che la signorina Hale piangeva come se le si stesse spezzando il cuore. Era certa che si sarebbe ammalata gravemente se avesse continuato così. Poi Margaret si sentì toccare e balzò su mettendosi seduta. Guardò la stanza che conosceva, nella penombra la sagoma di Dixon, mentre quest'ultima era in piedi e teneva la candela leggermente dietro perché ne temeva l'effetto sugli occhi spaventati di Margaret, ancora gonfi e offuscati. «Oh, Dixon, non ti ho sentita entrare in camera», disse Margaret, riprendendo una vacillante padronanza di sé. «È molto tardi». Continuò alzandosi fiaccamente dal letto, con i piedi che toccavano per terra senza essere completamente appoggiati, mentre spostava i capelli che le coprivano il viso, bagnati e arruffati, e cercava di far finta che non fosse successo nulla, come se si fosse soltanto addormentata. «Faccio fatica a dirvi che ore sono», replicò Dixon con voce risentita. «Da quando vostra madre mi ha dato questa terribile notizia mentre l'aiutavo a vestirsi per il tè, ho perso la cognizione del tempo. Di certo non so cosa sarà di tutti noi. Quando poco fa Charlotte mi ha detto che stavate piangendo, signorina Hale, ho pensato: non mi sorprende, poverina. E il padrone che pensa di diventare un dissidente a quest'età, quando, se dobbiamo dirla tutta, ha fatto un buon lavoro nella chiesa, dopo tutto se l'è cavata. Avevo un cugino, signorina, che è diventato un predicatore metodista a 50 anni e che aveva fatto il sarto per tutta la vita, ma d'altra parte non aveva mai saputo fare un paio di pantaloni che stessero bene per tutto il tempo che era rimasto nel commercio, quindi non c'era da stupirsi. Ma il signor Hale, come ho detto alla signora, che cosa avrebbe detto il povero Sir John quando avete sposato? Il signor Hale non ha fatto i salti di gioia, ma se avesse saputo che saremmo arrivati a questo, avrebbe detto le peggiori bestemmie, se fosse stato possibile. Dixon era stata talmente abituata a fare commenti sull'operato del signor Hale con la signora che a volte l'ascoltava e a volte no, a seconda dell'umore, da non accorgersi delle scintille negli occhi di Margaret e delle sue narici che si dilatavano. Sentir parlare di suo padre in quel modo e in faccia dalla cameriera. Dixon! Disse con quel tono di voce basso che usava sempre quando era troppo agitata, che aveva dentro il suono come di un tumulto remoto o di un temporale minaccioso che scoppiava in lontananza. Dixon, dimentichi con chi stai parlando. Stava dritta e in piedi ora, faccia a faccia con la domestica, fissandola con sguardo fermo e penetrante. Il signor Hale è mio padre, vattene, hai commesso un grosso sbaglio. Uno di quelli per cui il tuo buon senso ti farà dispiacere quando ci ripenserai, ne sono certa. Dixon ciondolò, titubante, per la stanza qualche minuto. Margaret ripeté: Puoi andare, Dixon. Voglio che tu te ne vada. Dixon non sapeva se risentirsi per quelle parole decise o piangere. Entrambe le cose avrebbero dato fastidio alla sua padrona. Tuttavia, come disse tra sé e sé, la signorina Margaret ha un che di aristocratico, come il povero padroncino Frederick. Da dove l'hanno preso, mi chiedo. E lei, che si sarebbe risentita per simili parole dette da chiunque altro avesse modi meno altezzosi e determinati, fu abbastanza docile da dire con un tono tra l'umile e l'offeso: Posso slacciarvi la veste, signorina, e sistemarvi i capelli? No, stasera no, grazie. E Margaret l'accompagnò con la candela fuori dalla stanza e serrò la porta. Da quella volta Dixon obbedì a Margaret e la ammirò. Diceva che era per la somiglianza al povero padroncino Frederick, ma la verità era che a Dixon, come a molti altri, piaceva sentirsi governata da un carattere forte e deciso. Margaret aveva bisogno di tutto l'aiuto di Dixon nelle cose da fare e del suo silenzio nelle cose da dire. Infatti, per un po' di tempo quest'ultima ritenne di doversi mostrare offesa rivolgendo la parola alla sua giovane signora il meno possibile. In tal modo l'energia venne fuori nell'agire piuttosto che nel parlare. 2 settimane erano poche per programmare un trasloco così importante, come disse Dixon, chiunque tranne un gentiluomo, o meglio quasi tutti i gentiluomini. Ma intravedendo proprio in quel punto lo sguardo diretto e severo di Margaret, continuò la frase tossendo e docilmente prese le gocce di marrubio, una pianta medicinale usata sin dall'antichità come rimedio contro le affezioni respiratorie, che Margaret le offrì per fermare il leggero pizzichio nel petto. Quasi tutti, tranne il signor Hale, avrebbero avuto abbastanza senso pratico per capire che in così poco tempo sarebbe stato difficile scegliere una qualsiasi abitazione a Milton Northern, anzi in qualunque posto, nella quale poter traslocare i mobili che dovevano essere portati via dalla canonica di Helston. La signora Hale, sopraffatta da tutte quelle decisioni difficili e necessarie sulla casa che andavano prese nell'immediato e che sembravano esserle piombate addosso di colpo, si ammalò sul serio. E per Margaret fu quasi un sollievo quando sua madre si decise a mettersi giustamente a letto e lasciò a lei la gestione delle faccende. Dixon, fedele al suo ruolo di guardia del corpo, si prodigò in tutto e per tutto per la sua padrona. Usciva fuori dalla camera da letto della signora Hale soltanto per scuotere la testa e borbottare tra sé e sé in un modo che Margaret sceglieva di non sentire. Infatti, l'unica cosa chiara e certa davanti a lei era la necessità di lasciare Helston. Fu nominato il successore del signor Hale e ad ogni modo, dopo la decisione di suo padre, non bisognava perdere tempo per il suo bene, oltre che per tutte le altre motivazioni. Tant'è vero che tornava a casa ogni sera più avvilito, dopo i necessari saluti di addio che aveva deciso di portare a ogni singolo parrocchiano. Margaret, inesperta com'era in tutte quelle faccende pratiche da sbrigare, non sapeva a chi chiedere consiglio. La cuoca e Charlotte continuavano a lavorare sodo, con braccia volenterose e cuore fermo, spostando e imballando tutto, così, per tutto il tempo, il lodevole buon senso di Margaret le consentì di capire cosa fosse meglio e di dare istruzioni su come fare. Ma dove sarebbero andati? Entro una settimana non sarebbero stati più lì, diretti a Milton o dove? Tante erano le disposizioni che dipendevano da questa decisione che Margaret si propose di domandarlo a suo padre una sera, nonostante fosse stanco e giù di corda. Lui rispose: Mia cara, ho avuto davvero troppo a cui pensare per sistemare anche questo. Cosa dice tua madre? Che cosa desidera? Povera Maria! Vi fu un eco ben più forte al suo sospiro. Dixon, appena entrata nella stanza per preparare un'altra tazza di tè per la signora Hale, colse le ultime parole del signor Hale e, protetta in sua presenza dallo sguardo di rimprovero di Margaret, osò dire: La mia povera padrona! Non penserai che stia peggio oggi, disse il signor Hale, girandosi di scatto. Non lo posso dire con certezza, signore, non tocca a me giudicare. La malattia sembra essere più nella mente che nel corpo. Il signor Hale parve essere infinitamente afflitto. Farai meglio a portare alla mamma il suo tè finché è caldo, Dixon, disse Margaret con un tono pacato ma autorevole. Oh, perdonatemi, signorina. Avevo la mente altrove, stavo pensando alla povera... alla signora Hale. Papà, disse Margaret, questa incertezza fa male a entrambi. Certamente la mamma risente del cambiamento delle tue idee. Non possiamo farci nulla, continuò dolcemente. Ma adesso il percorso da seguire è chiaro, almeno fino a un certo punto, e penso, papà, che potrei farmi aiutare dalla mamma con i preparativi se tu mi potessi dire che cosa preparare. Lei non ha mai espresso nessun desiderio in nessun modo e pensa soltanto alle cose di cui non si può fare a meno. Andremo direttamente a Milton. Hai preso una casa lì? No, rispose. Suppongo che dovremo andare in una pensione e cercare una casa. E imballare i mobili per lasciarli in stazione finché non ne avremo trovata una? Suppongo di sì. Fai quello che credi sia meglio. Ricordati solo una cosa: non avremo molti soldi da spendere. Non avevano mai avuto molte cose superflue. Margaret lo sapeva. Si sentì come se un grosso peso le fosse stato improvvisamente gettato sulle spalle. 4 mesi prima, tutte le decisioni che doveva prendere riguardavano i vestiti da indossare per cena e le liste che faceva con Edith di chi doveva accogliere chi nelle feste a casa. E per di più viveva in una di quelle case in cui non ci sono molte decisioni da prendere, fatta eccezione per quel grande avvenimento che era stata la proposta del capitano Lennox. Tutto procedeva con la regolarità di un orologio. Una volta all'anno c'era una lunga discussione tra sua zia e Edith se andare sull'isola di Wight, all'estero o in Scozia. Tuttavia, in queste occasioni, Margaret non aveva dubbi sul lasciarsi trasportare senza alcuno sforzo da parte sua verso il porto sicuro di Helston. Ora, dal giorno in cui il signor Lennox era arrivato e l'aveva sconvolta con una decisione da prendere, ogni giorno nascevano questioni da risolvere, molto importanti per lei e per coloro che amava. Suo padre salì di sopra dopo il tè per stare con sua moglie e Margaret rimase da sola in salotto. Improvvisamente afferrò una candela e andò nello studio del padre a prendere un grosso atlante e, dopo averlo trascinato con difficoltà in salotto, iniziò a studiare la carta dell'Inghilterra. Quando il padre tornò di sotto, era pronta ad accoglierlo con uno sguardo raggiante. Mi è venuto in mente un piano magnifico. Guarda qua, nel Darkshire, distante da Milton e anche un mio dito, si trova Heston, che ho sentito spesso nominare dalla gente che vive nel nord come una piccola e gradevole località di mare. Ora, che ne pensi di lasciare la mamma lì con Dixon mentre tu ed io andiamo a vedere le case e gliene facciamo trovare una già pronta a Milton? Respirare un po' di aria fresca la preparerebbe per l'inverno e le risparmieremmo tutta la fatica e a Dixon farà piacere prendersi cura di lei. Deve venire con noi, Dixon? Chiese il signor Hale con impotente sconforto. Oh sì, disse Margaret. Diciamo pure che per Dixon è sottinteso, d'altronde non so cosa farebbe la mamma senza di lei. Ma dovremmo adattarci a uno stile di vita completamente diverso, temo, è tutto molto più caro in una città. Dubito che Dixon si troverebbe bene, e essere sincero, Margaret, a volte mi sembra come se quella donna si desse delle arie. Se le dà, e come, papà? E se lei dovrà sopportare un nuovo stile di vita, noi dovremo sopportare le sue arie, che sarà peggio. Comunque, vuole davvero bene a tutti noi e per lei sarebbe una separazione dolorosa, ne sono certa, specialmente nel bel mezzo di questo cambiamento. Quindi, per il bene della mamma e per la fedeltà che ha dimostrato, penso proprio che debba venire. Molto bene, mia cara. Vai avanti, mi rassegno. Quanto dista Heston da Milton? Il tuo dito non mi dà un'idea chiara della distanza. Bene, allora credo siano 30 miglia, non sono poi molte. No, non è una gran distanza, ma come Beh, non importa. Se pensi che possa fare bene a tua madre, facciamo così. Era un bel passo avanti. Margaret ora poteva lavorare, agire e pianificare seriamente, e la signora Hale poteva risollevarsi dal suo torpore e dimenticare la sua vera sofferenza pensando al piacere di andare al mare. Il suo unico rammarico era che il signor Hale non sarebbe potuto rimanere con lei durante quelle 2 settimane, come era successo un tempo quando erano fidanzati e per 2 settimane lei era stata a Torquay con Sir John e Lady Beresford.